La Casa Bianca e il coronavirus, il vaccino della politica. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. President Trump insists he does not need to be tested for coronavirus. I feel extremely good. The American people, I think, want to know that their president is on top of this, understands it, and that is being guided by science. Welcome back to our place of work. La Our League for Penal Reform, un'importante organizzazione britannica, ha scritto al Ministero della Giustizia per avvertirlo dei rischi che corre la popolazione carceraria. Come riporta l'Independent, l'organizzazione ha puntato anche il dito contro le condizioni delle carceri britanniche. Negli Stati Uniti, mentre gli operatori delle carceri della Virginia adottano misure speciali contro il coronavirus, il professor Greg Gonsalves dell'Accademia di Salute Pubblica di Yale lancia un allarme sulle prigioni del Connecticut, che hanno una popolazione carceraria anziana e precedenti di negligenza nella diffusione dell'epatite C. In Italia abbiamo visto le rivolte in alcuni istituti penitenziari, con 12 morti e la fuga di molti criminali. L'Iran ha temporaneamente rilasciato circa 70.000 prigionieri a causa dell'epidemia nel giorno in cui i decessi subivano un'impennata. Che cosa ci dice ancora una volta l'epidemia da coronavirus? Che, come dicevamo ieri, mette in luce le debolezze nel mondo, è un acceleratore di crisi già latenti. Un sistema detentivo non all'altezza di quelli che dovrebbero essere standard riconosciuti: sovraffollamento, condizioni igieniche e sanitarie non adeguate, impossibilità di lavoro in molti istituti di molti paesi. Ecco, un sistema come questo mostra la sua inadeguatezza. L'Italia, ma anche tanti altri paesi, hanno per anni rimandato riforme del sistema detentivo. Il dibattito, spesso inquinato da prese di posizioni ideologiche, si è spesso arenato e adesso la politica deve prenderne atto. Nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Iran, in Italia, nei sistemi democratici, così come nei regimi. Immaginate un'epidemia di coronavirus nelle carceri dell'Honduras, la cui popolazione supera del 300% la capacità e i cui detenuti spesso sono affiliati a violente organizzazioni criminali che creano sistemi interni di potere e collusione. Ancora una volta, il virus più pericoloso non è il Covid-19, non sono i detenuti che sono in pericolo e privati di alcuni diritti. Il virus più pericoloso è la scarsa lungimiranza della politica, che rimanda decisioni importanti al momento dell'emergenza, e in emergenza le scelte sono spesso tardive. Ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, questo è il tema che vi sottopongo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano, e vi invito a mandarmi i vostri commenti su questo tema. Parleremo anche di altro, non soltanto di come il fragile sistema carcerario in tanti paesi del globo stia per essere messo alla corda. Parleremo anche di come il coronavirus sta impattando sulla lunga corsa elettorale americana fino a novembre. Per i vostri commenti, le vostre domande, 349-238-6666, ma anche Facebook, Nessun Luogo 24, Giampaz invece gli account Twitter. Detto ciò, Gianmarco Ferronato, che oggi è con noi in regia, assieme a tutta la squadra di Nessun Luogo, la prima cosa che facciamo è misurare la temperatura. Nelle scorse settimane vi abbiamo raccontato la crisi migratoria e l'emergenza che sta subendo la piccola isola di Lesbo, in particolare il centro per i migranti di Moria, appunto a Lesbo, l'isola che dista appena pochi chilometri dalla costa turca. La notizia che è giunta oggi è di un caso confermato di coronavirus proprio nell'isola. Immaginate l'impatto in una popolazione di migranti il cui numero gestibile dovrebbe essere attorno ai 4.000, invece i migranti sono circa 20.000, condizioni igienico-sanitarie preoccupanti che abbiamo spesso denunciato. Ecco, anche su questo dossier viene fuori quella che è l'impreparazione di alcuni stati, alcune nazioni, in questo caso dell'Unione Europea più in generale, perché la Grecia è il paese frontaliero. Anche qui la non gestione o la maldestra gestione dei flussi migratori, demandando all'intera Grecia quell'iniziale urto molto potente, viene messo in luce in maniera spietata dal primo caso di coronavirus, appunto. Arrivano già i primi messaggi al 349-238-6666, c'è anche qualcuno che si appoggia a citazioni filosofiche. Fra poco ve ne darò conto. Fatemi prima andare in Afghanistan, perché è un altro dossier che seguiamo da parecchio tempo. Vi ricordate, ricapitolo brevemente, elezioni 7 mesi fa, vittoria risicatissima di Ashraf Ghani su Abdullah Abdullah, 50.6% il risultato, con pochissimi afghani andati a votare. Nel frattempo l'accordo raggiunto fra Stati Uniti e talebani stessi, a questo punto si apre la lunga strada per Ghani e i talebani per cercare di capire come miscelare le due anime di questo paese. Proprio ieri Ashraf Ghani aveva annunciato l'accordo con i talebani, ebbene è saltato. Nella tarda serata di ieri Sadiq Siddiqui aveva diffuso un tweet in cui dichiarava la volontà del governo di firmare un decreto per il rilascio dei prigionieri del gruppo armato, nella speranza di smuovere appunto questi negoziati. Come ricorderete, è proprio il rilascio di 5.000 talebani il punto fermo che hanno messo i taliban per poi procedere eventualmente a un dialogo e una logica inclusiva nel governo di Kabul. Ultima notizia, il nostro termometro ci porta in Turchia. Anche lì faccio una breve ricapitolazione di quello che è stato uno dei punti nevralgici della Turchia in quanto membro della NATO. Ricorderete, l'abbiamo spesso ribadito, quello bizzarro paradosso, e sto usando un eufemismo evidentemente, per cui quel legame privilegiato tra Russia e Turchia avesse portato all'acquisto intanto della prima batteria di missili S-400, un sistema missilistico molto avanzato, che però è fondamentalmente un sistema anti-NATO. Pochi giorni fa la Turchia aveva chiesto non soltanto alla NATO ma anche agli Stati Uniti una mano per la campagna siriana. Voi ricorderete che l'obiettivo di Erdogan era creare quella fascia di sicurezza di prima 30 km, adesso si è estesa parecchio, si combatte nella zona di Idlib. Insomma, durante queste richieste sia la NATO che gli Stati Uniti aveva chiesto supporto militare, e agli Stati Uniti in particolare Erdogan aveva chiesto i missili Patriot. È di poche ore fa la notizia che gli Stati Uniti avrebbero offerto alla Turchia il sistema di difesa missilistico Patriot. In cambio però di che cosa? Beh, immagino che lo avrete già immaginato, scusate la ripetizione, cioè la rinuncia di Ankara di implementare l'utilizzo del sistema rivale russo, cioè appunto gli S-400. S-400 che peraltro, ricordiamo, dovrebbero essere operativi già entro un mese. Quindi questo braccio di ferro e questa scelta a cui ormai è sottoposto il governo turco, Patriot o S-400, detta in altri termini, mi avvicino alla Russia o sto, come dire, nel seno della NATO e senza alzare troppo la testa? Vedremo entro un mese come verrà sciolto. Questo è il nostro termometro internazionale. Gianmarco, adesso andiamo negli Stati Uniti. One thing that's clear is that this presidential campaign, this presidential election is going to be unlike any other. Quello che è evidente al momento è che questa campagna presidenziale sarà diversa da qualsiasi altra mai svoltasi negli Stati Uniti. La politica ha a che fare con le persone e questo virus obbliga le persone a stare lontane. This virus requires people to distance themselves from one another. La voce di Terry Moran, che è il reporter di ABC News, segue la cronaca politica americana, lo avete sentito, sottolinea la valenza storica di questo confronto elettorale in vista di novembre. Perché in effetti la politica è un'arte fatta di strette di mano, di bagni di folla, come dice lo stesso giornalista, è people's business. Le campagne elettorali si fanno col contatto con gli elettori, con gli stadi pieni, abbracciando le persone, andando a scambiare parole, certo, senza rispettare evidentemente quel metro di distanza che invece è consigliato ormai da parecchio tempo dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ecco come incide il coronavirus anche su un appuntamento elettorale come questo. Avrete visto qualche immagine magari in televisione di questi comizi in cui normalmente quando la telecamera gira di 180 gradi si vedono folle festanti, e in questo momento invece vi sono soltanto alcuni reporter con le telecamere ben distanziate, almeno un metro e mezzo l'una dall'altra. Quanto si sta perdendo in calore, quanto si sta perdendo soprattutto però in efficacia. In questa puntata Nessun Luogo Lontano proviamo a quantificare l'effetto del coronavirus in quelle che sono le più importanti elezioni al mondo. Sentite ancora come il reporter di ABC News Terry Moran cerca di descrivere quello che è il mood, direbbe lui all'inglese, dei vari candidati alla prima nel campo democratico ma poi infine anche alla presidenza, nell'affrontare una campagna elettorale così asettica. That's what they're in this the business of connecting with people. Biden e Sanders entrano in contatto con le persone, persuadono, convincono le persone, ascoltano le persone. E per farlo è necessario stare a stretto contatto. Secondo il CDC, appartengono a un gruppo ad alto rischio. Sono uomini, hanno più di 70 anni. Bernie Sanders ha avuto problemi di cuore. Joe Biden ha problemi di circolazione. Anche il presidente Trump ha i suoi problemi. Questa è una situazione ad alto rischio per persone di quell'età. E questa è una situazione che dovranno gestire. E per gli elettori, questa è la scelta al momento. Tre uomini che hanno più di 70 anni. This is the choice for Americans right now. Three men in their 70s. Tre uomini ultra settantenni, così Terry Moran, anche con una certa delicatezza, se volete, mette insieme quelli che sono dei fattori assolutamente nuovi, eclatanti per questa tornata elettorale. Tre candidati appunto sopra i 70 anni e quindi più a rischio del resto della popolazione americana. Tre candidati che non possono, come i predecessori nelle precedenti campagne elettorali, ricevere l'abbraccio della folla. Questa era la voce di Terry Moran di ABC News. Adesso la vostra voce tramite i messaggi 349-238-6666. C'è qualcuno che torna a quella, chiamiamola editoriale iniziale, insomma quella riflessione che vi ho sottoposto su come il sistema carcerario, il sistema penitenziario nel mondo potrebbe e in parte è già stato colpito e stia mettendo alla luce per l'ennesima volta una fragilità. La tesi, confrontandoci qua in con la redazione di Nessun Luogo Lontano, e che è emersa in questi giorni, è che sicuramente il coronavirus mette a nudo le fragilità, ma in alcuni casi può essere un acceleratore di crisi, e non di per sé, se non è già crisi, appunto potrebbe diventarlo. Quando va a impattare, illuminare sistemi che già di per sé scricchiolano, non funzionano, non sono stati rinnovati, beh, allora a quel punto, come si direbbe, il re è nudo. Beh, Voltaire già lo diceva, la civiltà di un paese si misura dalle carceri, così un ascoltatore. Un altro, molto più cinico e punta il dito senza troppe remore, un'altra puntata di predicozzi morali, non ne ho bisogno, ci risentiamo domani. Lungi da noi fare predicozzi morali, era, spero, una lucida riflessione su come il sistema penitenziario, in molti casi sovraffollato, in molti casi mal gestito, e sto parlando in generale nel mondo, dall'Honduras all'Iran, ma 70.000 detenuti iraniani liberati a causa del coronavirus, non le pare una notizia, non le pare una fragilità che viene messa in luce dal coronavirus? Interessante il messaggio di Diego, devo confessarlo, anticipa quella che era un'altra mia timidissima tesi, se il coronavirus fosse il cigno nero per Trump, cercheremo di rispondere a queste domande, vedremo come Donald Trump abbia in realtà in serbo una sorpresa per rispondere a questo cigno nero. Il cigno nero è ormai, dopo la definizione, la codificazione che ne ha fatto Nassim Taleb, libanese economista da molti citato, a volte anche a sproposito, è l'inatteso, l'inaspettato che davvero non si poteva prevedere. Ecco, forse il coronavirus che irrompe nella campagna presidenziale può davvero sparigliare le carte. Qualcun altro, il corona potrebbe rivelarsi un grandissimo fattore inatteso di influenza sulle elezioni e potrebbe far pendere l'ago della bilancia su chi punta molto sull'argomento sanità, un aiuto per i democratici se fossero bravi a sfruttarlo, così un altro ascoltatore. Coronavirus dunque che irrompe, le prime conseguenze non si sono fatte attendere, mentre Joe Biden e Bernie Sanders hanno cancellato i prossimi comizi elettorali a partire da quelli in Ohio, dove si voterà il 17 marzo. Il vicepresidente Mike Pence ha annunciato che i convegni di Trump verranno decisi giorno per giorno, quindi una posizione decisamente più attendista. Il New York Times che cosa ha scritto? Ebbene, che la nuova incertezza sui comizi e gli incontri faccia a faccia con gli elettori potrebbe ripassare l'intera campagna elettorale e impattare su di essa. Non solo il Partito Democratico ha bisogno di comizi di massa, ma anche Donald Trump, anzi forse più di un altro leader americano, scrive il New York Times, è stato lui ad aver usato i mega comizi elettorali per motivare i suoi elettori. E poi tra pochissimo, mentre ci prepariamo per andare a New York con Riccardo Barlam, corrispondente del Sole 24 Ore appunto dagli Stati Uniti, c'è un altro aspetto che è molto interessante, cioè la sfida logistica vera e propria, perché la gestione organizzativa degli eventi evidentemente subisce un impatto. Per esempio in Ohio il segretario di Stato Frank LaRosa ha ordinato il trasferimento di tutte le stazioni di voto allestite all'interno dei centri per anziani e nelle case di cura. Gli organizzatori quindi dovranno trasferire, pensate, 128 postazioni elettorali e trovare un'alternativa entro il 17 marzo. C'è poi il tema dei lavoratori impiegati in questi seggi. Più della metà di quelli impegnati nelle primarie del 2016 avevano più di 60 anni. Si sta in sostanza cercando anche di incoraggiare il voto via posta. Poi c'è un'altra storia che arriva da Seattle che ci dimostra in maniera lampante come vi sia stata una sottovalutazione da parte degli Stati Uniti sul coronavirus. Prima però fatemi andare a New York con Riccardo Varlama. Riccardo, buongiorno, ben ritrovato nel suo luogo lontano. Buongiorno, buongiorno a voi tutti. Allora, dicevamo, Riccardo, che il virus irrompe nella campagna elettorale, forse il vero cigno nero, come suggeriva qualche ascoltatore, però forse Donald Trump, conoscendo quanto è abile politicamente, non soltanto dialetticamente, potrebbe trovare un modo per ribaltare questa che potrebbe, ancora non è un'emergenza per gli Stati Uniti, almeno a sentire i toni di Trump, no? Però una volta che lo diventasse, Donald Trump potrebbe trovare un modo per volgerla ancora una volta a suo favore. Ma l'ho già trovato, in realtà l'emergenza lo è già, in alcuni stati è stata dichiarata, e Trump, a differenza di Biden e Sanders, che hanno preso sul serio l'emergenza e hanno già annullato i primi eventi elettorali per evitare assembramenti, continua appunto a dire che passerà, che il caldo farà passare tutto, e a spandere ottimismo. Il suo capo di gabinetto, che è stato appena scelto venerdì, si è messo in autoisolamento perché hanno scoperto che era positivo, così come è stato positivo ritrovato Ted Cruz, un senatore repubblicano molto vicino a Trump, e insieme avevano partecipato a un evento del movimento conservatore che sostiene Trump, e Trump ha rifiutato di fare il virus, in qualche modo c'è stata una campagna insomma anche su questo, e qui negli Stati Uniti c'è molta sottovalutazione, c'è anche il problema del sistema sanitario che non è, non è come quello europeo, dove per fare un test ci vogliono $3,200, ci sono, venerdì scorso leggevo, c'erano su 50 stati, 6 stati non erano ancora attrezzati per svolgere questi virus, quindi l'emergenza c'è. Sì. Trump una mossa ce l'ha già, perché lui appunto ha puntato tutto sull'economia, sulla forza dell'economia americana che continua a esserci nonostante questa contrazione terribile della borsa, che è una delle, in questi giorni c'è stato uno dei più violenti sell-off del mercato azionario della storia di Wall Street. Sì. Lunedì scorso, ricordate, tutti i tre indici sotto il 7%, con perdite sopra il 7%, scusate, è stata la peggiore seduta dai tempi dal giorno degli scatoloni di Lehman Brothers, vi ricordate? Sì, quelle immagini. 2008, quando chiuse la banca da un giorno all'altro. Certo. E Trump però c'ha già una mossa nel mirino, perché lui da diversi mesi stava studiando, lui, ricorderete, nel inizio 2019 fece questa riforma fiscale per cui ha abbassato l'aliquota delle aziende americane dal 35% al 21%, le tasse federali, e tutti i democratici soprattutto dicevano che non ha fatto niente per la gente comune, per la working class, ma solo per i ricchi, per quelli che hanno i grandi patrimoni, e lui da qualche mese stava studiando questa riforma, no? Sì. Ci sei? Sì, ti sentiamo perfettamente. Per tagliare le imposte sul reddito ai lavoratori dipendenti, e a questa proposta che ha spiegato ieri, proprio ieri in dettaglio, ha incontrato i deputati e i senatori repubblicani alla Casa Bianca, e la sua proposta è questa: lui vuole azzerare fino alla fine dell'anno, diciamo così, tutta una parte di imposte che pagano sulle buste paga i lavoratori e le aziende sui contributi previdenziali e diciamo il contributo sanitario del programma Medicare. Stiamo parlando del 15% di tasse, sì, in meno per tutti i lavoratori dipendenti. Insomma, ovviamente, Riccardo, perdonami se ti interrompo, ma dalle tue parole sembra un avvicinamento incredibile, non dico a quello che era il sistema, il modello dell'Obamacare, comunque una concessione tutta democratica a una sanità un po' più equa, un po' più giusta, segno che il coronavirus è nei pensieri, è nella mente di Donald Trump. Allora mi verrebbe da dire che ha tirato fuori il coniglio dal cilindro mentre arrivava appunto il coronavirus. Il problema, scusami se ti interrompo, è che il Congresso a questo punto dovremmo trovare un accordo, perché i democratici si oppongono alla sua iniziativa, che ovviamente farà aumentare il deficit federale in modo incredibile, perché toglie, certo, qualcosa dal bilancio federale equivalente, è stato stimato, al 4% del PIL americano. E però sai, se ti trovi in busta paga $1,000, $700, $800 in più al mese, anche se sei democratico ci cominci a pensare. Certo. E anche quel tampone che ci dicevi, che costa $3,000, potrebbe essere come dire, anche un pochino più accettabile. Riccardo Barlam, corrispondente del Sole 24 Ore da New York, ci sta raccontando quello che è l'impatto del coronavirus. Da una parte una politica che tende a sottovalutarlo, ma ne parlammo già ieri, è chiaro che la scadenza elettorale sta dettando anche il lessico e la linea politica di alcuni candidati. Altri come Biden e Sanders non si stanno nascondendo dietro un dito. Torniamo per un attimo su Biden, Riccardo, poi ti lascio al tuo lavoro. Allora, questo Biden, eterno secondo, questa figura secondo alcuni senza troppo carisma, ne sta uscendo piano piano rafforzato. Ogni volta gli analisti devono sempre correggere il tiro, perché si è gioito, si è esultato per un Buttigieg, il nuovo volto della politica americana, poi si è detto la Warren in ottima posizione, poi si è detto Sanders, attenzione, ce la sta facendo, adesso di nuovo, ancora una volta, i giornalisti e gli analisti devono correggere il tiro. Proviamo senza sfregare la sfera di cristallo. Come lo vedi Biden rispetto anche al coronavirus? Ma a questo punto lui lo vedo decisamente bene, perché il partito si è mosso tutto negli ultimi 15 giorni attorno a lui, si è stretto attorno a lui, lui ha ricevuto l'endorsement di tutti i candidati moderati usciti dalla corsa e quindi ha ricevuto anche i delegati con cui poi si deciderà la nomination al congresso democratico di luglio in Wisconsin. E l'unica che manca all'appello è Elizabeth Warren, l'altra candidata progressista, che la scorsa settimana ha detto che usciva dalla corsa, ha annunciato il suo stop alla campagna elettorale, sì. E lei ha, anche lei ha un 69 delegati in eredità da regalare. Un bel tesoretto, ancora, verrebbe da dire. È ancora un bel tesoretto, ma non ha ancora deciso, chi sostenere. Qualcuno a Washington comincia a ipotizzare un possibile ticket di Warren con Joe Biden in cambio di una vicepresidenza, e sarebbe uno scacco matto, una mossa per unificare il partito, certo. E anche affosserebbe le speranze del vecchio senatore del Vermont Sanders, che si è battuto come un leone, sta girando l'America nonostante i suoi 78 anni da un anno, sì. Come nessun altro. Sì, davvero un impegno profuso notevole, abbiamo sempre ribadito quanto si è riuscito a mettere insieme, no? Classi sociali diverse, etnie diverse, insomma un lavoro che potrebbe essere vanificato da quest'altro cigno nero politicamente inteso. Grazie mille Riccardo Barlam da New York, a corrispondente voi. Del Sole 24 Ore. E noi che facciamo? Io direi stiamo calmi, come ha detto Donald Trump. We're prepared and we're doing a great job with it, and everybody has to be vigilant and has to be careful, but be calm. It's really working out and a lot of good things are going to happen. Così Donald Trump, dicevamo, che all'inizio ha cercato, ma anche tuttora, e non sta assolutamente allarmando i suoi elettori, i suoi concittadini. Qualche ascoltatore al 349-238-6666, prima di andare a sentire l'informazione finanziaria, pur di denigrare il grande Trump, tifate per un'epidemia di coronavirus, puerili, non vi vergognate. Giacomo, agricoltore alzanese, in tutta onestà, gentilissimo Giacomo, no, non ci vergogniamo, non siamo puerili, non stiamo tifando per un'epidemia di coronavirus. Abbia pazienza e riascolti la puntata, perché stiamo raccontando quello che sta succedendo e come il fronte democratico e quello repubblicano e l'amministrazione statunitense, quindi questi tre fronti, stanno cercando di accogliere e gestire la crisi del coronavirus. Allora, Riccardo Barlam parlava anche di economia e di impatto del corona. Andiamo a sentire le borse e poi apriamo la seconda pagina di Nessun Luogo Lontano. Nessun luogo è lontano. Ancora ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, Nessun Luogo è Lontano quest'oggi si sta interrogando e vi sto interrogando e chiedendo commenti anche su come il coronavirus stia impattando sulla politica americana. Da un lato abbiamo un Donald Trump che tenta di minimizzare, dall'altro il fronte democratico che cerca di accogliere quelle che sono le riserve, soprattutto sanitarie, cancellando i comizi. In mezzo ci sono storie, alcune ve le ho già raccontate. Prima di raccontarvi la prossima storia che ci porta a Seattle, i vostri commenti al 349-238-6666. C'è qualcuno che dice: coronavirus, acceleratore di crisi, ma anche svelamento dell'unità, inutilità, perdonatemi, della politica, chiacchierona, fondamentale importanza di coloro che lavorano in silenzio, il deep state, medici, esercito, prefetti, polizia, eccetera. Così un ascoltatore che sottolinea l'importanza di chi lavora e invece mette in luce quello che a suo parere è l'inutilità della politica. Qualcuno di voi, ma probabilmente anche giustamente, sta facendo paragoni con la politica italiana, ma questo è un programma che guarda soprattutto all'estero. Qualcun altro, se il coronavirus facesse parte di un film di Hollywood, dovremmo individuare i vari personaggi. Il messaggio è lungo, lo sintetizzo: c'è cioè il medico eroe, il ladro finito in prigione ingiustamente, un agente segreto. E poi dice, spietatissimo questo ascoltatore, Trump sarebbe il presidente incauto che rischia di far estinguere la razza umana. Al di là dei toni apocalittici, in qualche modo mi sembra di intuire che l'ascoltatore stia stigmatizzando quella che è stata la sottovalutazione da parte del presidente statunitense. Poi c'è qualcun altro che ci redarguisce: l'approccio sempre uguale, democratico uguale buono, repubblicano uguale cattivo, beh. Io, gentile ascoltatore, le ripeto, più che raccontare e far raccontare da giornalisti, corrispondenti, analisti quello che accade negli Stati Uniti, di più non posso fare. Nessuno ha detto che i democratici sono buoni, abbiamo detto che i democratici si stanno adeguando, ma così come il presidente Donald Trump lo sta facendo giorno per giorno, ma l'emergenza coronavirus sta costringendo i candidati alla presidenza a rivedere le modalità di fare politica. Questo sicuramente avrà un impatto sui voti e un impatto probabilmente anche sul prossimo presidente statunitense. Un altro ascoltatore interessante, poi davvero vi porto a Seattle: di solito durante le crisi gli americani confermano sempre il commander in chief, inoltre le coste democratiche potrebbero venire più colpite dell'entroterra meno popolato e repubblicano. Tutto pro Trump, così si chiede un ascoltatore. È verissimo, ne parlammo in questa trasmissione, di come in momenti di crisi o momenti di guerre, sto pensando anche all'Iraq o altre crisi combattute dagli Stati Uniti fuori dai confini, di solito il presidente viene poi riconfermato, cioè in momenti di profonda incertezza una guida viene appunto riconfermata. Allora, detto ciò, Gianmarco Ferronato, aiutami perché dobbiamo andare a Seattle. La storia di Seattle ci porta nello stato di Washington e in particolare in questa città, perché essi sono uno dei principali focolai di coronavirus negli Stati Uniti, 190 i casi confermati a oggi secondo la stampa locale. A fine gennaio, proprio qui, era stato confermato il primo caso di coronavirus negli Stati Uniti, ma il contagio era iniziato già da tempo. Lo ha dimostrato la dottoressa Ellen Chu, un'esperta di malattie infettive di Seattle, la cui vicenda paradossale è stata recentemente raccontata anche dal New York Times. Assieme al suo team di ricerca, la dottoressa Chu per mesi aveva raccolto tamponi nasali nell'ambito di un vasto progetto di ricerca sull'influenza. Sarebbe bastato riadattare i test per il monitoraggio del coronavirus sui campioni già raccolti per avere informazioni più precise sulle dimensioni del contagio in corso nello stato di Washington, per capire insomma quanto si era diffuso in altre comunità e se il cosiddetto paziente zero aveva infettato altre persone. Le autorità competenti però non hanno mai autorizzato la dottoressa Chu a svolgere questa ricerca. Solo il 25 febbraio la dottoressa e il suo staff hanno deciso di iniziare ugualmente a eseguire test per il coronavirus, anche senza l'approvazione del governo. I risultati hanno confermato il timore della dottoressa. In poco tempo hanno avuto il primo campione positivo. Apparteneva a un adolescente che non aveva mai lasciato lo stato di Washington. Il virus era già presente negli Stati Uniti da tempo. Allora, 349-238-6666, in questo viaggio che prova a fare anche un coast to coast negli Stati Uniti per cercare di valutare quello che secondo alcuni analisti, ma anche secondo alcuni di voi, è il vero e proprio cigno nero nella campagna elettorale, nella corsa alle presidenziali fino alla Casa Bianca di novembre, cioè l'irrompere del coronavirus nella campagna elettorale. 349-238-6666. C'è qualcuno che redarguisce l'ascoltatore precedente, Deep State, il suo ascoltatore ha imparato due parole in inglese e li piazza lì. Detto ciò, mi sembrava molto chiaro quello che voleva dire l'ascoltatore precedente. Regimi, riprende il concetto della puntata di ieri, un altro ascoltatore: per affrontare economicamente il coronavirus, Trump fa detrazioni. Il presidente Conte sparge soldi a pioggia estendendo a tutto il paese la zona di pericolo per poterne usufruire, così Petronio da Bologna. Stiamo sull'estero, gentili ascoltatrici e ascoltatori, non ripeto per snobismo, ma a ciascuno il nostro campo di ricerca, di studio e di narrazione, proprio tutto ciò che avviene fuori dai confini italiani, ma che guarda caso nel caso del coronavirus è assolutamente globale e globalizzato. A questo punto proviamo a entrare in punta di piedi in quella che l'autore ha chiamato la House of Trump, evidente l'allusione anche a una certa iconografia filmica o forse seriale. Il libro House of Trump, edito da EGE, è stato scritto da Giovanni Borgognone, docente di storia delle dottrine politiche all'Università di Torino e segue con attenzione da tempo le vicende statunitensi. Professor Borgognone, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno, buongiorno a lei. Allora, già il titolo House of Trump, che al di là del rimando estremamente pop e chi è affamato o assetato, lascio la scelta di serie televisive, ci rimanda immediatamente un immaginario ben preciso, introduce però un'idea molto forte, quella che la presidenza Trump sia una presidenza estremamente privata. Lui, imprenditore, super liberale, non ha mai rispettato il lessico politico, l'ha reinventato, ha sparigliato totalmente le carte della politica statunitense. Ecco, come si sintonizza, come si collega una presidenza così personalistica e privata con un'emergenza, quella del coronavirus, che è invece globale, pubblica e collettiva, professore? Ma lei mi porta via il lavoro perché sta già dando la risposta, ma in effetti è proprio questo. Leggendo il libro, professore, per forza di cose ci siamo preparati. No, la strategia di Trump è sempre quella, ha fatto riferimento giustamente anche alle serie televisive, l'eroe del privato. Noi siamo abituati ormai a vedere in queste serie TV il personaggio spregiudicato, quello che è pronto a usare ogni mezzo pur di ottenere il suo obiettivo. Ecco, Trump si basa su questa retorica, ha sempre fatto questa parte, no? Pensiamo alla questione del muro, era pronto a sfidare tutti i poteri, anche a usare i mezzi più spregiudicati pur di ottenere quel risultato che aveva promesso, cioè di bloccare l'immigrazione illegale. E questa sua immagine però ben poco si adatta a un'emergenza come questa. Tra l'altro funziona bene quando Trump ha di fronte a sé un nemico, come dire, di persona, che è fisico. Ecco, qua invece siamo di fronte a un nemico, un killer invisibile, in qualche modo è anonimo, no? E questo, proprio perché è anonimo, richiede una risposta pubblica, istituzionale, organizzata, ed è proprio quello che invece una persona come Trump, il suo stile da eroe appunto del privato, non è in grado di fare, dare una risposta pubblica. Io quando parlo ai miei studenti, adesso sto facendo proprio un corso sulla destra americana, sì. Tra l'altro arrivo proprio adesso da una lezione online, siamo tutti presi da questa emergenza, e parlo del New Deal, un momento che tutti ricordiamo della storia americana, no? Siamo soliti tradurre quella frase come nuovo corso della politica americana, sì. Il vero significato era il nuovo patto, il patto tra il governo e il popolo. Ecco, quello che Trump non può fare è una cosa del genere, è un patto tra il governo e il popolo, cioè è quella dimensione istituzionale. Lì c'era nuovamente un periodo, eravamo di fronte a una crisi gravissima e il New Deal offriva una risposta pubblica, condivisa, comunitaria. Le risposte che ha sempre offerto Trump non erano fatte per neutralizzare la paura, erano fatte per somministrare dosi di paura. E quindi si rivolgevano sempre al singolo, isolato, privato, sì. di fronte al telefonino con il tweet. Erano basate su una strategia del caos. Qui il caos, come dire, c'è già, è il punto di partenza, e l'uscita può essere soltanto quella organizzata, quella pubblica, quella istituzionale, che sono proprio le cose che Trump non è in grado di fare e che invece un avversario, se sarà effettivamente lui, come ormai pare certo, Joe Biden, sì. si propone di fare in quanto uomo esperto di governo, cioè con tutti quei tratti che Trump ha sempre dipinto invece negativamente. La voce e l'analisi di Giovanni Borgognone, insegna storia delle dottrine politiche all'Università di Torino, ha appena scritto, quasi fresco di pubblicazione, House of Trump, edito da Egea, quest'idea della presidenza privata. Un ulteriore elemento di analisi per andare a comprendere meglio il momento drammatico, sensibile che la politica americana sta vivendo nel momento in cui appunto il coronavirus si irrompe durante la campagna elettorale. Professore, stia con noi perché ha citato la destra americana, adesso ci andiamo perché anche lì il rapporto di Donald Trump con la destra è interessante da analizzare e noi andiamo a sentire come va il traffico e poi l'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Nessun luogo lontano quest'oggi prova a passare ai raggi X, perdonatemi, forse la metafora è un po' impietosa, forse di cattivo gusto in questo momento, la politica americana. Perché raggi X? Perché irrompe il coronavirus e lo fa in una maniera strana. La più grande democrazia al mondo, uno stato particolarmente efficiente, si è ritrovato impreparato. La storia di Seattle riportata al New York Times che vi ho raccontato lo ha dimostrato. Una certa politica sta tentando di minimizzare e sottovalutare, probabilmente ben consapevole consapevole dell'impatto elettorale che potrebbe avere. 349-238-6666 per i vostri commenti, le vostre domande. Qualcuno dice: e se qualcuno avesse il vaccino da tirare fuori come sorpresa elettorale? Qualcun altro: Trump sembra il Clint Eastwood della politica, ma meno affascinante e meno simpatico. Se Trump è il Clint Eastwood della politica statunitense, Joe Biden chi è? Abbiamo provato a fare un profilo, sentite. We need help to beat sleepy Joe Biden. I don't think so. Era stato messo all'angolo durante l'inizio della tournée democratica, ma Joseph Robinette Biden non è andato al tappeto. Anzi, a 77 anni è il redivivo di queste primarie. L'eterno secondo, un politico che in due primarie presidenziali non aveva vinto nemmeno un singolo stato, si ritrova ormai a essere il candidato anti-Trump. Take a look at this. CNN now projects Joe Biden is the winner in Michigan. 125 delegates are at stake. Joe Biden is the Democratic presidential primary winner in Michigan. Veterano del Partito Democratico, il suo curriculum è senza pari. Senatore del Delaware per 6 legislature, è entrato per la prima volta al Congresso nel 1972. Ha servito come vicepresidente per entrambi i mandati di Obama, primo cattolico a ricoprire questo ruolo. È stato inoltre membro e presidente di diverse importanti commissioni, dove ha spesso cambiato opinione rispetto all'interventismo militare, mantenendo invece una linea dura sul tema stupefacenti e criminalità. Da sempre attento alla riforma del sistema sanitario, anche per ragioni che lo hanno toccato personalmente, Biden ha in agenda anche importanti investimenti nell'educazione e una politica estera caratterizzata da protagonismo e dialogo. I suoi 36 anni di carriera politica gli hanno valso l'appellativo di «vecchio zio Joe». Nonostante una loquacità che gli è costata qualche gaffe e accuse da parte di diverse donne di comportamenti non rispettosi, il volto familiare, la politica moderata, la forte amicizia con Obama e il pragmatismo sembrano essere stati preferiti al socialismo rivoluzionario di Sanders per la corsa alla Casa Bianca. Rispetto all'emergenza sanitaria ora in atto, quella del coronavirus, Joe Biden parla agli elettori con franchezza, riconoscendo la gravità del problema e la necessità di preparare l'America al contagio inevitabile. This is a worldwide pandemic. This is not just the United States of America. Questo è il ritratto che abbiamo provato a raccontarvi di Joe Biden, lo sfidante. Adesso torno dal professor Borgognone, non prima di aver risposto ad alcuni ascoltatori che tornano sul tema di Defender Europe 2020. Allora, siccome alcuni ascoltatori, come dire, vivono questa che è un'esercitazione congiunta della NATO, che sta disponendo lo schieramento di oltre 20.000 soldati statunitensi in Polonia, Germania, Lettonia, Estonia e Lituania, qualche ascoltatore la legge associandola al coronavirus, forse anche, come dire, ammantandola di eccessivo complottismo. Allora, è una esercitazione che era decisa da mesi, lo hanno spiegato anche analisti militari come Claudia Major di un think tank tedesco, SWP. L'obiettivo evidente di questa operazione congiunta decisa da mesi, che si fanno regolarmente questo tipo di operazioni, è mostrare i muscoli alla Russia. Le regioni del Baltico da tempo soffrono della, come dire, arroganza, della muscolarità russa, e da tempo si fanno esercitazioni in quei luoghi. Per esempio, ne ricordo una abbastanza recente, proprio estone. A quel punto è stata la NATO a farsi vedere. Non vi è alcun legame col coronavirus. Detto ciò, fatemi tornare dal professor Borgognone. Giovanni Borgognone insegna storia delle dottrine politiche all'Università di Torino, ha scritto House of Trump di Egea, una sorta di viaggio all'interno della residenza privata e pubblica, e questo suona quasi come un ossimoro evidentemente, di Donald Trump, casa sua e la Casa Bianca, e a volte questa, come dire, ambiguità anche nella gestione che provoca da un lato mal di pancia nei suoi avversari politici, non nei commentatori, ve lo assicuro, gentili ascoltatori, a chi mi dice che sono anti-Trump, assolutamente, ma sicuramente ha fatto mettere le ali ai repubblicani. Un'altra componente, professor Borgognone, che, come dire, sta consolidando il Partito Repubblicano, è un certo flirt con la destra americana, qualcuno dice anche con l'alt-right, la cosiddetta destra alternativa. Com'è il rapporto di Trump e come potrebbe evolvere da qui a novembre con le frange più estreme di questa destra, secondo lei? Ma dunque, questa destra è una destra a cui Trump sempre è amica, pur mantenendo una distanza, cioè lui non può essere un alt-right, appunto alt-right significa alternative right, questa destra che ha il suo epicentro ideologico nell'idea del nazionalismo bianco, proprio delle nazioni separate, non è solo l'idea della superiorità della razza bianca sulle altre, ma l'idea appunto che l'America debba tornare a essere un'America puramente e semplicemente bianca, e questo è in qualche modo il nucleo centrale. E Trump, in varie sue dichiarazioni, pensiamo solo dopo gli incidenti di Charlottesville in cui disse che quella gente che manifestava erano tutte brave persone, ha ammiccato a questa destra, ecco, ed è stata una componente importante per il suo successo. Certo, se dall'altra parte l'avversario è Biden, che è molto forte sull'elettorato afroamericano, il servizio diceva giustamente che Biden ha un profilo di politico pragmatico, sì, ecco, e l'elettorato, sì, afroamericano è in massima parte pragmatico ed è per questo che non ha sfondato invece in quel tipo di elettorato Sanders. Ebbene, è facile vedere una sorta di allineamento razziale, diciamo, tra i due partiti, nel senso che il partito repubblicano ha un elettorato bianco molto forte e ha un elettorato invece non bianco che da sempre è debolissimo. Lei pensi che tra gli anni 70 e prima anni 90 era più o meno il 4% l'elettorato non bianco del partito repubblicano, salito poi al 12% nei decenni successivi, ridisceso sotto al 10% più recentemente, sì, quindi c'è proprio un forte allineamento razziale. Un consolidamento, certo, e anche una polarizzazione sempre più estrema. Esattamente. Data, le chiedo in 30 secondi se riesce, anche con uno slogan, visto che House of Trump è particolarmente riuscito, anzi è un elogio di questo titolo che ci ha incuriosito fin da subito, ma a questo punto una così forte polarizzazione avvantaggia Donald Trump o ragionalmente quello che sarà lo sfidante, cioè Joe Biden? La polarizzazione non avvantaggia né l'uno né l'altro di per sé, dipende naturalmente da quanti elettori vadano poi a votare da una parte e dall'altra. Quello che avvantaggia Biden e che rende Biden l'avversario che probabilmente fin dall'inizio Trump guardava con più timore, ha fatto di tutto, ha fatto capire che tifava per Sanders in queste campagne, sì, delle primarie, sì, è il fatto che Biden si possa rivolgere ai cosiddetti swing voters, gli elettori incerti. Quelli sono quelli che in tutte le elezioni americane risultano, certo, sempre un fattore cruciale. E quello sarà il vero ago della bilancia. Devo chiudere, la ringrazio tantissimo, professor Borgognone, lo ricordo, docente dell'Università di Torino, autore di House of Trump, edito da Egea. Buona giornata, buon lavoro professore. Io ho 10 secondi, fatemi andare da quello che è uno degli ultimi messaggi al 349-238-6666. Quello che lascia perplessi non è lo schieramento di militari, dice un ascoltatore, per le esercitazioni in Europa, quanto il fatto che in questa emergenza non venga rinviata l'operazione. Proprio perché emergenza, proprio perché un'operazione, esercitazione militare, immaginate il danno d'immagine della NATO di fronte a un Vladimir Putin che poche notizie lascia trapelare dai suoi movimenti militari della Russia e soprattutto dallo stato del coronavirus. Detto ciò, di solito abbiamo un colonnello, stavolta c'è sottotenente Gianmarco Ferronato, aspetto gli ordini. Perentorio, quasi come la Bernardi. Preludio solito ai titoli di coda, ringraziamenti, l'appuntamento è per domani, ore 16, un saluto da Gianpaolo Musumeci.